Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. È notizia fresca fresca di oggi su tutte le prime pagine dei giornali. Dal prossimo anno scolastico scatterà il tetto del 30% per gli alunni stranieri. Del resto il ministro della pubblica istruzione Gelmini l'aveva detto e stradetto, e ora la comunicazione alle scuole è arrivata. Stop dunque alle scuole ghetto, i ragazzi stranieri vanno ridistribuiti fra scuole vicine, ha deciso la Gelmini. La novità entrerà in vigore gradualmente, riguarderà solo le prime classi di primaria, secondaria di primo e secondo grado dal prossimo anno, poi via via entreranno anche le altre classi. In arrivo anche più ore di insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri. Nel caso delle medie, ad esempio, una quota di ore della seconda lingua comunitaria potrà essere utilizzata per potenziare appunto l'italiano. Il bambino o il ragazzo potrà anche essere inserito in una classe inferiore rispetto alla sua età se la conoscenza della nostra lingua non sarà adeguata per seguire le lezioni, cosa che peraltro accade già. E prima di essere inserito in classe, lo studente potrà seguire corsi appositi di italiano, quindi per potenziare la sua conoscenza dell'italiano e poi poter seguire le lezioni insieme agli altri compagni. Inoltre, per migliorare la conoscenza dell'italiano possono essere organizzati corsi di potenziamento tenuti, dove possibile, dagli insegnanti della scuola stessa. Funzionerà per eliminare le scuole ghetto? Abbiamo chiesto ad Anna Maria Quartili, dirigente scolastico della scuola primaria Ceccherelli di Modena. Pensate che qui siamo sul 90% circa di alunni stranieri, tanto che sono ormai pochissimi ad iscriversi e la scuola il prossimo anno chiuderà. Certo che una concentrazione eccessiva di alunni stranieri in una sola scuola non è opportuna, perché va a finire che si confinano gli alunni stranieri in un solo luogo e magari si mettono al riparo altre scuole da un eccesso di alunni stranieri, quindi riuscire a suddividerli in maniera più equa sul territorio è giusto. C'è da dire che noi abbiamo tanti alunni stranieri perché sono gli alunni che abitano qui intorno, quindi anche pensare di distribuire gli alunni stranieri in maniera omogenea si va poi a incidere sulla realtà quotidiana dei bambini, nel senso che magari non possono frequentare la scuola di quartiere, quindi poi hanno dei compagni con i quali non si possono trovare il pomeriggio perché vivono lontani. Ecco, per lei c'è da dire che quando il numero degli alunni stranieri aumenta, poi rapidamente diminuisce il numero degli alunni italiani, perché i genitori sono molto timorosi che un numero elevato di alunni stranieri possa incidere sullo svolgimento del programma, eccetera. E secondo lei c'è un fondo di verità in questo? Sicuramente, poi dipende se sono alunni neoarrivati, cioè che arrivano direttamente dal paese di origine e non sanno la lingua, ma se sono bambini nati qui è un'altra cosa. Il problema non va tagliato con l'accetta, insomma. Ecco, ma può essere un inizio quello comunque di porre un tetto per affrontare il problema, oppure secondo lei non è utile cominciare da qui? Può essere utile, però bisognerebbe vedere le realtà caso per caso, nel senso che ha anche qualche cosa dell'ingiustizia sociale, pensare di prendere i bambini col pulmino perché sono stranieri e distribuirli in maniera uniforme per tutta la città. Probabilmente non c'è una soluzione migliore, però insomma bisognerebbe riuscire a cercare le soluzioni che meno producono danni anche sui bambini. La Gelmini dice, non si capisce perché il bambino italiano può frequentare la sua scuola di quartiere e il bambino straniero no. La Gelmini dice basta con le scuole ghetto e cominciamo dunque da qui. Effettivamente la sua la sente, la vive come una scuola ghetto? Ma io che ci lavoro, no, quelli che la vedono da fuori sì. Gli italiani hanno smesso di mandare i loro bambini qui, questo sì, quindi gli altri più o meno hanno visto una scuola ghetto qui, avendo quasi tutti i bambini. Io guardo in classe un bambino italiano e tutti gli altri sono stranieri. È chiaro che l'incremento dell'italiano, soprattutto in questa età, avviene attraverso rapporti amicali, e quindi se sono tutti bambini che parlano comunque un italiano più o meno corretto, ma non un italiano molto ricco, hanno poca occasione di incrementare il loro lessico, il loro capacità di produrre discorsi complessi in italiano, perché il modello che hanno è al limite solo quello dell'insegnante. Fra loro usano l'italiano assolutamente, però insomma non è un italiano molto ricco, un italiano un po' stentato. Se avessero certo più bambini italiani in classe, naturalmente imparerebbero di più anche loro. E non pensa che possa essere anche utile inserirli in contesti con un maggior numero di italiani per integrarli? Sì, per sì, no, no, questo senz'altro, perché io che testano anche una serie di relazioni sociali con gli italiani. La scuola, appunto, è una scuola che poi in qualche maniera li separa dagli altri. Quindi sicuramente non è auspicabile che ci siano scuole con un numero così alto di bambini stranieri. Noi abbiamo fatto di tutto perché anche gli italiani frequentassero questa scuola. Bisognerebbe anche lavorare sui genitori italiani, secondo me, rendendoli consapevoli che se ci sono 4 o 5 bambini stranieri in una classe non succede niente. Da Modena a Genova, dove invece un esperimento simile è già in atto dal 2004, le scuole del municipio Centro-Est si sono infatti messe in rete e hanno ridistribuito gli alunni stranieri e con disagi particolari, per intenderci quelli seguiti dai servizi sociali, e la cosa ha funzionato. Per esempio, alla scuola secondaria di primo grado Don Milani Colombo si è passati dal 36% circa di alunni stranieri nel 2000 e il 20-25% di alunni seguiti dai servizi sociali al 18% nel 2009 di alunni stranieri e 15% di alunni con disagi particolari. Dunque, questi ragazzi sono stati distribuiti su più scuole. Dunque, non parliamo proprio di tetti, ma di un accordo fra le scuole che ha funzionato soprattutto a favore degli alunni stranieri, come ci racconta il preside della Don Milani Colombo, Paolo Cortigiani. Ma certo, l'intenzione è quella, può favorire l'uguaglianza di opportunità educative tra le varie istituzioni scolastiche presenti in un territorio, laddove invece, soprattutto nelle aree metropolitane, si sono create diciamo scuole medie o scuole dell'obbligo di serie A e scuole dell'obbligo di serie B per fenomeni di concentrazione del disagio sociale, che poi il disagio sociale che può essere di origine straniera o di origine italiana, ma comunque ha dei bisogni formativi ed educativi particolari. Secondo lei sarà facile, si legge nella nota, per migliorare la conoscenza della lingua italiana possono essere organizzati corsi di potenziamento tenuti dove possibile dagli insegnanti della scuola stessa. Lei che è il dirigente scolastico di una scuola, sappiamo insomma le scuole avere un po' le tasche vuote in questo periodo, sarà possibile avviare questo discorso o resterà sulla carta? Ma se ci saranno fondi dedicati, aggiuntivi, perché no? Senz'altro sì. Con i fondi attuali e soprattutto con le risorse di personale successive ai tagli dell'anno scorso, direi assolutamente no, perché non riusciamo nemmeno a sostituire i colleghi assenti per malattia. Non è chiarissimo il meccanismo che porterà comunque a realizzare le quote. Sarà facile secondo lei comunque gestire questo meccanismo? Bisognerà probabilmente mettersi d'accordo anche un po' fra presidi delle scuole vicine. Lo vede un meccanismo in qualche modo percorribile o complicato? Ma no, io credo, noi a Genova abbiamo attuato un'intesa interistituzionale tra scuole, uffici periferici del MIUR e l'ente locale comune di Genova, in modo da coordinare un'azione di redistribuzione proprio del disagio di questo tipo. Qui senz'altro penso che sarà da aprire una fase di progettazione e organizzazione sui singoli territori. E anche di coordinamento fra i vari istituti, perché giustamente nel rispetto dell'autonomia di ciascun istituto, però bisognerà in qualche modo cedere qualcosa, no? Alla scuola accanto. Insomma, lo vede facile questo meccanismo? Non sarà facilissimo, perché poi diciamo l'autonomia finora, l'autonomia scolastica si è esercitata abbastanza in modo solitario e un po' competitivo, individualistico. Però a Genova ci siete riusciti, insomma, sì, in qualche modo. Sì, a Genova ci siamo riusciti dal 2004. Nel 2004 abbiamo stipulato un protocollo di intesa che è tuttora vigente, sicuramente un po' da rivedere, perché dopo 5-6 anni alcuni aspetti sono da rivedere, ma proprio con lo scopo di ridurre la concentrazione di disagio in alcune scuole del territorio della circoscrizione centro-est di Genova, e migliorare l'eguaglianza di opportunità formative nelle scuole di questa zona di Genova. Quindi, e tra voi, insomma, i dirigenti sono volati gessetti e registri, o insomma siete riusciti in qualche modo a coordinarvi? No, direi tra i dirigenti il rapporto è stato ottimo. C'è stato qualche dirigente che nella propria scuola ha avuto un po' di problemi nel rapporto con gli organi collegiali della propria scuola, come il collegio docenti e il consiglio d'istituto, ma direi che il rapporto tra dirigenti è stato assolutamente eccellente. Da Genova a Torino, scuola elementare Fiocchetto, la dirigente scolastica Giulia Guglielmini. Allora, dunque, in realtà sono norme e indicazioni già contenute nelle normative precedenti. In realtà i dirigenti scolastici da tempo sanno che il tetto degli alunni stranieri è un problema che va tenuto per quanto possibile sotto controllo. Credo che possa essere comunque un'attenzione che va data, non tanto però indicando quella parola, cioè alunni stranieri, ma alunni italofoni, quindi differenzierei brutalmente la questione. Non è una questione di cittadinanza, ma di capacità di tipo linguistico. Allora, se vogliamo lavorare sulle capacità di tipo linguistico, va bene, utilizziamo però le parole corrette. Per quanto riguarda le applicazioni pratiche, le indicazioni non sono chiarissime nella nota, e poi temo che toccherà proprio a voi dirigenti scolastici, insomma, renderla, attuarla. Lei stanotte, non so se ci ha un po' riflettuto, ha cominciato già a pensare alle cose pratiche, visto che la notizia è di ieri, si è fatta qualche idea? L'organizzazione non sembra molto fattibile in questo momento, perché un testo che definisca solamente, diciamo, la cittadinanza diventa anche complicato da, come dire, io inizio a prendere le iscrizioni, poi se supero il 30% li rispedisco da qualche altra parte, facciamo degli scambi, insomma, tra scuole limitrofe, diventa un po' complicato. Quanti alunni stranieri ci sono nella sua scuola, più o meno, percentuale? In alcune scuole anche l'80%. Io so che io ho 5 scuole, quindi in alcune scuole, quelle situate in alcune zone dove c'è anche una popolazione di quel tipo, quindi non si capisce per quale motivo un certo tipo di popolazione non possa accedere alla scuola del quartiere. Quindi in almeno 2 scuole la percentuale di alunni di origine straniera, quindi questo in realtà dal punto di vista linguistico potrebbe non essere un problema, come non lo è in alcuni casi, è altissima. In realtà anche a livello nazionale solamente il 10% degli alunni stranieri non ha competenze di tipo linguistico sufficienti per seguire il programma, quindi dobbiamo proprio cambiare, credo, l'ottica con cui si imposta il problema. Se vogliamo parlare di competenze linguistiche, utilizziamo la scala delle competenze linguistiche che esiste a livello europeo riconosciuta, la certificazione delle competenze, utilizziamo quella e la utilizziamo per tutti. Credo che potrebbe valere anche per qualche italiano in alcuni casi, pensiamo solo all'uso del congiuntivo. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, alle 12.45.